con l'artista Monio Vadia per parlare dell'immigrante che è in noi, stranieri a noi stessi, a Milano al Cinema Spazio Oberdan, martedì 29 gennaio 2019. Moni, ben trovato. Grazie per l'invito, saluto i vostri ascoltatori. Vorrei subito precisare che si tratta di una conversazione. Ok, allora presentaci questa conversazione. Il grande tema, che è il principale tema dell'umanità, che è il mancato riconoscimento dell'altro nella pienezza della sua dignità, è come senso nella costruzione della relazione. Sono millenni che l'umanità tenta questa strada, che è la sola strada possibile se si vuole vivere in pace e in giustizia. L'accoglienza dell'altro, il riconoscimento del suo volto. E non è il vicino, come qualcuno ha equivocato con il comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. Nell'ebraico biblico è ve'ahavta le'ereacha kamocha. Era non è karov, non è quello che ti sta vicino, è il volto che viene incontro a te. E dunque tu devi assumere la piena responsabilità del volto dell'altro. Il gesto di accogliere l'altro è la prima parte della proposizione del comandamento. E il filosofo Levinas la legge così: e amerai per il prossimo tuo è come te stesso. Può leggerla così perché la copula è sottintesa nella lingua ebraica. E quindi cosa vuol dire? Che la tua identità di essere umano l'acquisisci nella misura in cui accogli l'altro. L'amore, sai, da noi è chiacchierato come sentimento sdolcinato, non è affatto un sentimento sdolcinato, non c'entra niente con San Valentino e con tutte quelle imbecillità. Sì. L'amore significa proprio l'accoglienza dell'altro nella pienezza della sua dignità e, se posso usare un brutto termine, della sua tunità. Se non lo accogli perché lo vorresti come te, come piace a te, lo accogli per quello che è. Allora, questo è l'inizio. Dall'inizio dei monoteismi, vale per quello ebraico, cristiano, musulmano. E poi, nel corso della storia dell'umanità, l'umanità è arrivata a enunciare questo principio senza fare ricorso al trascendente, cioè la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Sì. Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali, pari in dignità e diritti. Questo è il pieno, totale, assiomatico riconoscimento dell'altro come titolare di tutto ciò che spetta a te. Se non capisci questo, tu ti muovi verso una strada che innalza muri, costruisce segregazioni e porta alle guerre. Non c'è un'alternativa. In pace si vivrà quando vivremo da stranieri fra gli stranieri. L'altro oggi è il migrante in particolare, ma l'altro è stato per millenni la donna. La donna è stata relegata al ruolo di alterità inferiore, come posso dire anche ricettacolo di ogni nequizia, perché la madre è stata accettata alla donna nella sua pienezza, no? Questo per millenni. E da lì derivano i razzismi, antisemitismo, qualsiasi tipo di razzismo che sia dell'uomo, l'omofobia, tutto questo deriva da lì. Noi abbiamo il problema dell'altro in ognuna delle nostre relazioni. L'altro è il tuo vicino di casa, l'altro è la persona che incontri per strada, l'altro è quello con cui lavori e via dicendo. Ma noi non abbiamo capito qual è il nodo della condizione di sé e di altro. Per esempio, in una società fondata su un capitalismo selvaggio, che mira solamente all'ipertrofia del potere economico, finanziario, del denaro, l'altro, lo straniero a questo sistema, è il lavoratore. Non è trattato come uno della comunità. Viene precarizzato, viene colpito nel suo sostentamento. E in particolare oggi l'altro è lo straniero, il migrante. Ma attenzione, in realtà non è il migrante. Cioè, se qui decise di venire in Italia uno sceicco con tutti i suoi soldi, stai tranquillo che non lo mandano mica in un CARA. So se mi spiego, Sì. è con i poveri che ce l'hanno, Certo. l'altro è il povero, il disagiato, perché ce lo spiega memorabilmente in una delle pietre miliari sull'argomento, la psicoanalista e stagista Julia Kristeva, è una mia conterranea bulgara naturalizzata francese, che ha scritto una pietra miliare, tutti dovrebbero averlo in casa e leggerselo, si intitola Stranieri a noi stessi. Il titolo originale francese è Étrangers à nous-mêmes, che è stranieri a noi stessi. Cosa dice la Kristeva? Lo straniero che viene verso di noi non è né il messia in cammino, né il pericolo da eliminare per pacificare il gruppo. Semplicemente lo straniero ci abita. Noi paventiamo lo straniero che è in noi, e questo viene messo in vibrazione dalle corde di risonanza dello straniero che arriva, e abbiamo paura di ritrovarci in quella condizione. Lo straniero che è in noi è la parte meno conformista, in realtà più libera, ma noi ne abbiamo terrore perché vogliamo stare tranquilli, che vuol dire morti, in un'altra parola. Cioè l'uomo, come ha spiegato Dante in quei due versi dedicati ad Ulisse, è nato per declinare la conoscenza con la virtù. Parte non fosse avere per perseguire virtù e conoscenza. Cosa vuol dire questo? Che tu devi declinare lo statuto etico con la conoscenza. Quindi l'altro per te rappresenta una possibilità di conoscere verso il quale devi esercitare rispetto e non aggressione e non violenza e non pregiudizio e non dubbio. Non è così difficile da capire, ma è molto difficile da mettere in atto, perché noi viviamo in un'umanità che viene educata al confine, alla barriera, alla ripulsa dell'altro, sai, paesi e mogli e buoi, paesi tuoi, quell'altro, com'è, i veneti sono magistrali in questo, quando invece di noi dicono noi altri. Come noi altri, cazzo, o noi o gli altri, no, noi altri, come dire, siamo noi, siamo noi e gli altri insieme, siamo noi altri, come capisci? Non so, beh, questo naturalmente è una buttata, insomma, io parlo un po' di queste cose, giro intorno a queste cose e spiego una cosa fondamentale. Noi oggi sappiamo, grazie agli studi del nostro grandissimo genetista Luigi Cavalli Sforza, che c'è un solo uomo su questo pianeta. Questo uomo è Sapiens Sapiens Africanus. Tutti veniamo da lì, tutti. Allora, come si sono costruite le varie culture, come si sono costruite le varie sensibilità, tradizioni, bellezze, capacità di vedere il mondo? Attraverso il farsi altri da. È stato migrare che ci ha fatti quello che siamo. Il mondo del futuro, se blocchi la migrazione, rischia di abitarsi dentro una sorta di solipsismo negativo. La società nasce quando si esce dalla tribù. Ancora una volta mi tocca riferirmi allo scritto biblico io. La Bibbia è un libro straordinario, che non c'entra niente col sionismo, vorrei chiarire questa cosa qui, sì. Perché così scompriamo subito gli equivoci. Cosa dice Isacco, che è il progetto monoteista abramitico? Sappiamo se è un figlio, ma è un progetto. Che cosa? Va a sposarsi fuori dalla tribù, perché così si crea società. Il tabù dell'incesto non ha nulla a che vedere col sesso. Un fratello e una sorella sono un uomo e una donna. Che cosa c'è di così terribile? Un padre, una figlia. Il problema è che l'incesto viene eletto a tabù perché è antisociale, perché l'endogamia blocca la costruzione di una società. Ma non solo. Poi la biologia ci dice che è tendenzialmente patologico, può generare gravi malattie, proprio perché l'uomo è fatto per andare oltre, per stare chiuso, e l'endogamia è la chiusura degli affetti, dei sentimenti. Infatti, tutti no, e il matrimonio lo fai con altro dalla tua famiglia. Sì. E allora la crescita e la fertilità e l'intelligenza del tuo mondo lo fai con gli altri con cui vai a incontrarti, conoscerti. A parte che i metici sono bellissimi, se posso esprimermi così, ma voglio dire adesso questa, ancora una buttata. Ma quindi è un totale assurdo. E poi bisogna capire una cosa: siccome siamo in tempi di sovranismi, questa parola maschera il vecchio nazionalismo, sì, che ci ha regalato due guerre mondiali. L'esito di qualsiasi tipo di vocazione nazionalista è il conflitto, la guerra, perché è noi contro loro. Quando uno dice prima gli italiani, come il nostro ministro degli interni, dimentica che il nazismo è nato dicendo prima i tedeschi. America first, come dice, non è una novità, Deutschland über alles. Certo, certo. Che tra l'altro è equivocato, perché il poeta che scriveva vedeva la Germania sopra le altre terre, non intendeva quello. Però i nazisti l'hanno interpretato, soprattutto la Germania. Certo. Come certi cattolici, e non hanno capito un cazzo di quello che è il cattolicesimo, perché cattolico viene dal greco kataolos, cioè verso tutti, non sopra tutti, verso tutti. Chiesa universalista. Sì. Che quelli che dicono appunto, ah, vengono i musulmani, qual è? Il problema è che il cattolico va verso tutti per incontrarsi, per proporre quello che ha, non dovrebbe andare contro, sopra tutti. Infatti i cattolici, è singolare la vicenda cattolica, dove sono minoranza sono i migliori. Il problema comincia quando hanno la sindrome della maggioranza, ma non perché sono cattolici, perché sono maggioranza, e le maggioranze hanno un pizzio di merda. Credono di avere diritto ad avere ragione, mentre elettoralmente conquistano solo il diritto a governare, non ad avere ragione. Possono avere anche torto marcio. Certo. Allora ecco, chiarire che la questione dell'alterità è una questione strategica. Quando noi capiremo che l'altro è il senso primo nell'edificazione di una società, è quello dove l'io spezza la sua dignità e le sue possibilità, ma senza l'altro non sa neanche dove picchiare la testa. E allora costruiremo un mondo dove tutti siamo altri rispetto a qualcun altro, e lì noi vivremo in pace. No, guarda, questo è stato uno dei grandi insegnamenti della Bibbia. Guarda Netanyahu, fascista, razzista, segregazionista. Così vanno le cose. Sì. Moni, il sottotitolo dell'evento dell'Oberdan ci dice parole, immagini e intermezzi musicali. Ecco, come sarà strutturato l'appuntamento? No, è tutto, guarda, parole, immagini le faranno loro. L'appuntamento sarà strutturato con me che parlo, e ogni tanto, per non ammorbare la gente, io ho con me un fisarmonicista rom. Noi due insieme, un ebreo e un rom, rappresentano la diaspora europea. Certo. Noi abbiamo i due popoli, gli ebrei dell'esilio del centro-est Europa e gli rom, hanno dimostrato che si può essere popoli in tutto e per tutto, senza barriere, confini, burocrazie, polizie, guerre e tutto quanto. Ora, gli ebrei sono cascati nella trappola nazionalista, una parte degli ebrei, quelli che hanno scelto di vivere così, e i rom ancora vengono vessati, perseguitati, perché? Perché non sono passati nel salotto dei vincitori. Gli ebrei hanno scelto di entrare nel salotto dei vincitori. Siamo forti, armatissimi, efficientissimi, tecnologicissimi, e siamo come l'America, Silicon Valley, eccetera, questo. E quindi siamo pieni di armi fino ai denti, siamo l'esercito più potente del Medio Oriente. Questa è la scelta dei nazionalisti israeliani, non tutti gli israeliani, fortunatamente, ma di quelli che governano e comandano. E allora gli ebrei, come posso dire, per associazione, quindi sono diventati, infatti tutti fanno il carini, il giorno della memoria, mettendosi col trucchetto alla desenvolta. fare le visite dei lager, sono le visite dell'ipocrisia e della falsa coscienza. Perché poi tornano e perseguitano i rom e cacciano gli immigrati e lasciano morire innocenti negli oceani. Per me la memoria si fa costruendo una società di giustizia verso coloro che sono altri, perché molti ebrei morirono perché non li lasciarono entrare nei paesi dove volevano rifugiarsi. Che differenza c'è? Certo, certo. Allora, ricordiamo l'appuntamento, il migrante che è in noi, stranieri a noi stessi, parole, immagini e intermezzi musicali a Milano, al Cinema Spazio Oberdan, martedì 29 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Monio Vadia. È sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo e speriamo a presto. Grazie di cuore per l'invito, un saluto ai vostri ascoltatori e speriamo davvero presto ogni bene. Grazie. Ciao Moni, ciao. Ciao, caro, ciao.